Sono le 19 e un minuto. Trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar, benvenuto a Stefano Mizzella. Ciao Antonio e ciao a tutti gli ascoltatori. Anche oggi Stefano sostituisce Daniela, che sta benissimo, lo diciamo subito per tranquillizzare. Rassicuriamo tutti gli ascoltatori. Semplicemente ha molto da fare con il sito web, che diventerà ancora più bello. Io non so come possa diventare ancora più bello il sito web di Radio Mago. Comunque Stefano, oggi parliamo di come internet sta rivoluzionando il modo in cui gli artisti promuovono e distribuiscono la loro musica. Stiamo parlando naturalmente e soprattutto della musica indipendente, la cosiddetta indie music. Quindi sarà una puntata abbastanza vivace, Stefano. Esatto, sì, questo è un fenomeno all'ordine del giorno. Lo vediamo dai tanti artisti che appunto raggiungono successo e popolarità sfruttando le nuove piattaforme, sfruttando mezzi di comunicazione come MySpace, YouTube, che permettono quindi a giovani talenti emergenti di potersi costruire il proprio successo al di là di quelle che sono le major, che in qualche modo monopolizzano nel mercato discografico attuale. Io propongo, Stefano, se sei d'accordo, di fare però un piccolo salto indietro, cercando di vedere com'era la situazione anche soltanto 2 anni fa, quando mi capitò di parlare dei problemi che avevano i musicisti indipendenti a promuovere le loro opere. Mi capitò di intervistare una giovane pianista canadese che si chiama Marianne Trudel, e ti propongo di sentire le sue parole, allora un po' sconsolate. Andiamo con il flashback. Guarda, non è il caso di farsi illusioni. Anche a Montreal tutto è nelle mani dell'industria discografica. Per farti un esempio, anche se quest'anno è uscito il mio CD, la mia candidatura per i grandi festival non è stata presa in considerazione, perché sono gli artisti sostenuti dalle major ad avere la precedenza. Magari rispetto all'Italia, in Canada le radio indipendenti danno qualche possibilità di autopromozione in più, però va anche detto che c'è un'immensa quantità di giovani artisti che producono dei CD. La force de volonté. Il solo consiglio che mi sento di dare è di essere perseveranti, di avere una grande forza di volontà e soprattutto di essere onesti. È per questo che ho deciso di autoprodurre il mio CD. Volevo rimanere me stessa e sento che mantenersi integri artisticamente è l'unico modo per essere vincenti. Come si dice, o la va o la spacca, ma alla fine è un rischio che vale la pena di correre. Just a magic trick, I believe. Allora, Stefano, abbiamo sentito un brano dei Belladonna. I Belladonna sono un caso, direi, unico, più unico che raro, ma devo dire, cominciano a fare scuola, di una band che è riuscita ad arrivare al successo promuovendosi esclusivamente tramite internet. Ci avresti creduto un paio d'anni fa, quando abbiamo sentito Marianne Trudel, aveva questi problemi? Per fortuna per questi artisti la situazione è decisamente migliorata e il caso di Belladonna rappresentano un unicum italiano che però ha un ampio seguito in quella che è invece la scena internazionale. Penso ad artisti come Mika, gli OK Go, gli Arctic Monkeys, che comunque sono riusciti ad arrivare al successo negli ultimi mesi proprio pronto? Sfruttando queste sì, nuove piattaforme. Pronto, dovremmo avere in linea Dani dei Belladonna, il chitarrista che abbiamo sentito poco fa, ma non ci sente, va bene, non importa, proveremo a chiamarlo tra qualche minuto. Dicevi Stefano, quindi in sostanza le nuove tecnologie sono diventate protagoniste di questa rivoluzione? Beh sai, è un po' quello che ci stanno insegnando anche gli esperti di marketing, i fautori, i sostenitori del cosiddetto marketing virale, ovvero del modo in cui gli utenti possono arrivare ad una canzone, ad un racconto postato su un blog, su uno spazio, e in qualche modo questo permette a questi artisti di diventare famosi attraverso il tantam, attraverso il passaparola. In qualche modo non è più la major che decreta la visibilità o il successo di un prodotto, di un gruppo, ma è il social tagging, diciamo, sono gli utenti stessi, le community che decretano il successo di un gruppo o di un artista. Secondo te, Stefano, che sei molto attento e ascolti questa musica, anche perché forse secondo me ti sei un po' stufato di quello che mandano le radio, eccetera, quali sono le caratteristiche tipiche degli artisti che creano e distribuiscono la propria musica su internet? Ma guarda, io leggo questo fenomeno con un po' di malizia, nel senso che molti artisti nati così in rete hanno sfruttato un po' la scia dei fenomeni underground, cioè il fatto di nascere appunto come anomalie del sistema, che però non sono più anomalie nel momento in cui firmano il contratto con la major di riferimento. E credo che questo, in qualche modo, alcune band emergenti marcino un po' su questo finto underground, sul fatto di darsi un'area di fenomeni d'assalto, d'avanguardia, per poi non far altro che aspettare il successo, quello che ti cambia la vita. Quindi credo che anche in questo caso, sì, ok, abbiamo MySpace, abbiamo YouTube, però sta anche a noi leggere criticamente e vedere quale sia veramente il significato qualitativo di questi nuovi gruppi. E secondo te invece chi cerca musica su internet, chi ascolta, scarica, ha smesso di frequentare i negozi? Ma sai, è un po'... ma sono le... sicuramente è un fenomeno che riguarda le generazioni più giovani, ma credo che sia un fenomeno molto radicato in quelli che sono i nuovi tipi, le nuove tipologie di utenti del web. Allora Dani, siamo in diretta, mi fanno cenno dalla regia, probabilmente una parte della conversazione è andata in onda, c'è stato qualche problema tecnico. Allora, volevo dirti, forse i Belladonna sono la dimostrazione vivente che dal punto di vista delle opportunità per i musicisti indipendenti negli ultimi 2 anni, grazie ad internet soprattutto, le cose sono molto migliorate. La vostra band, oltre che per la qualità della musica, è ormai famosa. Stampa CD, tiene concerti affollatissimi in giro per l'Italia proprio grazie alla rete. E puoi dirci intanto come avete cominciato a usare il web per raggiungere il vostro pubblico? Guarda, noi oltre ad avere il nostro piccolo sito come diciamo l'era pre MySpace, che quindi era visitato da gruppuscoli di fan, amici eccetera, e abbiamo scoperto quasi per caso l'esistenza di MySpace nell'autunno del 2005. MySpace già era attivo da un paio d'anni, però qui in Italia ancora non era stato sdoganato, diciamo. E l'abbiamo scoperto leggendo su Music Connection, che è un giornale dell'industria musicale che viene stampato in California, leggendo nella versione online, interviste, sai, con direttori artistici stranieri, eccetera. Dicevano tutti: ah, beh, io ormai non sento più CD, i gruppi li vado a scoprire su MySpace, io ormai i gruppi non li vado più a vedere dal vivo, vado solo su MySpace, li sento lì. E dicevo: ma che cavolo è sto MySpace? Allora mi sono fatto le mie ricerche e sono andato da Luana, dalla nostra cantante, e ho detto: senti un po', ma c'è questa cosa che si chiama MySpace, dove la gente mette i pezzi, ma perché non ce lo facciamo? E Luana, a cui piacciono tantissimo tutte le novità, no? Ha detto sì, figo, senza sapere neanche di preciso né io né lei di cosa si trattasse, oltre il fatto che vedevamo che era una cosa che aveva un grosso credito presso l'industria discografica statunitense, e abbiamo aperto il nostro piccolo profilo. E nel giro di un primo mese nulla, poi dopo un paio di mesi abbiamo iniziato a ricevere messaggi di persone che dicevano: sì, ho messo il vostro pezzo sul mio profilo, ho aggiunto il mio video sul mio profilo, ne ho parlato ai miei amici, ho mandato un bullet su di voi. Però viene scattato un meccanismo micidiale stupefacente per noi, perché oltre al fatto di cercare di rispondere a tutti, perché ovviamente, ma quello lo facciamo come l'abbiamo sempre fatto, come cosa di cortesia, verso se uno ti chiede informazioni sulla tua musica, gli rispondi. Però poi la cosa è diventata una cosa che ci ha sopraffatto quasi, e che non ci sappiamo spiegare più di tanto, ma suppongo che il bello di MySpace sia proprio quello del passaparola. Non so se lo chiamano web 2.0, non so se dico una boiata, però il fatto di poter interagire, usare il web, internet, per interagire con altri esseri umani fondamentalmente. No, tra l'altro, ecco, questo è un lato per noi fondamentale, che non ci vediamo granché di virtuale, cioè è virtuale per me MySpace tanto quanto è virtuale il telefono col quale stiamo parlando io e te adesso, cioè è un mezzo per comunicare. Però ecco, diciamo, questa è la storia dei nostri esordi. Da lì che ci è cambiata la vita completamente, è cambiata la vita sia alla nostra band che devo dire anche a noi personalmente. Ciao Dani, sono Stefano. No, ti do ragione, hai fatto benissimo a citare il web 2.0. Poi, se vogliamo, prima di avviare questa intervista parlavamo di marketing virale. È proprio un po' questo, diciamo, che vi ha fatto raggiungere questo successo inaspettato. Però ecco, la mia curiosità è questa: voi sfruttate appunto piattaforme comunicative di successo come MySpace o come lo stesso YouTube, ma qual è stato il vostro posizionamento all'interno di queste piattaforme? Mi spiego. Su MySpace e su YouTube ci va chiunque, ci vanno soprattutto le nuove generazioni, e è sempre più difficile fare un distinguo tra musica pop, musica commerciale e invece musica, diciamo, di qualità, underground e così via. Come avete cercato di posizionarvi all'interno di questo mare magnum? E tu dici noi musicalmente come esatto, band? Esatto, come vostra immagine. Ma guarda, noi non è che abbiamo questo granché di immagine, perché fondamentalmente sia prima di MySpace che dopo abbiamo continuato a fare, abbiamo sempre fatto quello che volevamo fare. E poi voglio dire, noi non siamo un gruppo mega indie, super alternative, di ricerca sperimentale, però facciamo veramente la musica che noi vogliamo fare, e cioè siamo liberi da qualsiasi contratto, da qualsiasi imposizione di chiunque, quindi noi vogliamo fare esattamente questo, e voglio dire, le facce, i vestiti sono le nostre, bello brutte che siano, però sono quelle che abbiamo, quindi non è che abbiamo diciamo a tavolino delineato una strategia di posizionamento rispetto a quello che poteva essere un potenziale target di riferimento e cose di questo tipo, che peraltro conosco, però per scelta non conosco, insomma, faccio il musicista, però mi interesso di queste cose da anni, e sono comunque cose appassionanti per chi fa musica, perché si parla sempre di comunicazione. Però non è che c'è stata una strategia da tempo immemore, ormai io e Luana abbiamo deciso di fare quello che cavolo ci pare musicalmente, sotto tutti i punti di vista, e devo dire che forse a giudicare dal tipo di feedback che riceviamo dai nostri fan, insomma, tutti apprezzano la cosa che ci dicono tutti, oltre al fatto che ci trovano unique, quindi unici a livello di sonorità, ma questa è una loro idea musicale che hanno, però è proprio il fatto che non cerchiamo di puntare al massimo alla genuinità di quello che facciamo. Capisco che questa è una cosa che la dicono un po' tutti, però vabbè, la dico pure io. Senti, comunque va detto, MySpace, che poi tra l'altro la News Corporation di Rupert Murdoch ha acquisito da poco, no? Dall'anno scorso, da Microsoft per 580 milioni di dollari, e questo non mi sembra un segnale così secondario. Comunque MySpace non si rivolge proprio specificamente a musicisti indipendenti, è una grande community generalista, a differenza invece di piattaforme di distribuzione musicale ad hoc, come mi viene in mente GarageBand, Jamendo. Secondo te qual è la differenza, e soprattutto come spieghi il grande successo presso gli artisti di una piattaforma generalista? Questa è una bella domanda, non saprei, io penso che il successo di MySpace è stato innanzitutto staccato sotto certi aspetti dalla musica, ovvero tutti hanno trovato incredibilmente appassionante poter parlare al mondo di chi loro erano, ma tutti parlano in senso esseri umani non musicanti. E questo ha portato tante persone a dire: ci voglio essere pure io per parlare, per conoscere, per interagire, per rimorchiare, quello che vogliamo, ma anche per scoprire nuove band. Però nuove band, sì, forse, guarda, nel senso, in passato magari c'era, forse uno delle cose favolose di MySpace è stato proprio il fatto che magari in garage band, in tante altre situazioni, erano un po' più, diciamo, non voglio dire dei ghetti, però dei settori dove andavano tutti i gruppi che più o meno facevano sempre cose alla fine in qualche maniera di nicchia, e magari fantastiche, non voglio dire di nicchia, senza accezione né positiva né negativa. E mentre su MySpace, la prima grande storia di successo di MySpace è stata Tira Tequila, che voglio dire, certo, è una tipa che gira seminuda e fa canzoni più pop con le pop, però totale, eppure è piaciuta. Beh, non è la sola che gira seminuda, però. Sì, però diciamo la prima che si è affermata come, diciamo, cantante, penso sia diventata cantante dopo, quando ha capito che aveva questo gradimento enorme. Quindi non, e effettivamente c'è tantissima gente al mondo a cui piace qualsiasi cosa. Il fatto di essere immersi in una situazione che in qualche modo replica il mondo reale, quanti ci sono? 200 milioni di iscritti su MySpace, quindi voglio dire, certo, è una cosa ce n'è è per un tutti. Pubblico precotto. Scusami? È un pubblico precotto, pronto per l'uso. Assolutamente, e per qualsiasi tipo di cosa, dal gruppo death metal estremo alla cosa più electropop che esista. Quindi sì, è quello forse la cosa fantastica del mezzo, che ti permette, per una band, ti permette di interagire con persone che ci sono al mondo che gli piace, vorrebbero scoprire una band come la tua. Ecco, questo forse è la chiave di tutto. Il fatto che ci sia di tutto, tu ci vai perché sai che quella cosa la trovi. Take oxygen, open for all my brain. Pleasant fantasy, I didn't feel ashamed. When I look at you, my libido takes control. When I look at you, it's mystical, illusion love. High on oxygen, running from my veins. Long last innocence, but nothing is in vain. When I am with you, we're magical, damnation gods. Senti, a proposito sempre di cose precotte, un caso a parte è quello di CD Baby, che è una vera e propria piattaforma a 360 gradi per gli artisti indipendenti, che infatti non si limita a distribuire la loro musica su internet, compresi naturalmente tutti i grandi online store come iTunes, Rhapsody, eccetera, ma si occupa anche di stampare i CD per la vendita nei negozi, di creare il merchandising reale. Insomma, questo è stato un grande successo, soprattutto negli Stati Uniti. CD Baby, in cambio per tutto questo, chiede una percentuale del 9% sui guadagni. Secondo te è questo il modello del futuro? È una percentuale equa? In fondo si stanno scrivendo adesso i numeri per il futuro, no? Certo, guarda, adesso non so se la percentuale sia equa o meno, perché non sono un esperto né di macroeconomia né di microeconomia, non riesco a fare neanche l'economia di me stesso qui a casa, quindi. Però sicuramente per i servizi che offrono loro, io personalmente lo ritengo più ottimo, e loro offrono un servizio veramente fantastico, e sono straprecisi con i pagamenti, con le varie lettere dove ti notificano quanto hai venduto, a chi, come, dove, perché. Sono fantastici, oltretutto sono de facto ormai lo standard per i musicisti indipendenti per vendere i propri album, e anche se non è loro non stampano effettivamente i CD, loro vendono i CD che tu gli spedisci. Questa è una piccola quindi si pongono esattamente come interfaccia fra l'artista indipendente e il suo potenziale pubblico. Quindi, domanda di rito, ma se io adesso vado in un negozio e cerco un tuo CD, lo trovo? No! Fantastico! No, ma abbiamo considerato più volte, perché insomma, io e Luana facciamo musica da parecchio tempo qui in Italia, e quindi insomma avere una distribuzione qui in Italia non è così poi difficile, e solo che l'abbiamo ritenuto uno spreco di energia, francamente, di contattare, chiamare. Eppure di energia ne avete parecchio, perché insomma ci sono stati questi concerti anche a Roma di recente, che insomma sono stati esplosivi. Sì, sono stati anche molto molto piacevoli ritornare a Roma dopo tanto tempo, ormai torniamo più spesso in Gran Bretagna che qui. E è stato veramente bellissimo ritornare nella nostra città. Però sì, il fatto di distribuire l'album, diciamo, in termini reali, lo riteniamo veramente una cosa un po' superata, perlomeno per un gruppo come noi, che lavora in un certo modo e soprattutto che ha un grosso appeal all'estero. Allora, in sottofondo stiamo sentendo alcuni promo di associazioni di musicisti indipendenti e di un'altra cosa che si chiama il PodSafe Music Network, che è un ulteriore modello. Allora, abbiamo detto MySpace, le community, abbiamo detto CD Baby con questa offerta di servizi per gli artisti a 360 gradi e poi c'è il PodSafe Music Network dove ci sono anche i vostri brani. Mi spieghi come funziona? Ma il PodSafe, anche quello è un'interfaccia, quindi come se MySpace è l'interfaccia fra una band e i propri fan, se CD Baby l'interfaccia fra i dischi di un gruppo e i potenziali acquirenti, il PodSafe è l'interfaccia fra un musicista, una band e i potenziali podcasters che cercano costantemente musica interessante oppure in linea con i propri programmi. Per poterla poi inserire nel loro podcast, appunto. Ma è troppo dire adesso che se un podcast passa un vostro pezzo vi porta più celebrità di una trasmissione radiofonica? Ma dipende che podcast è, ecco. Dipende che sia trasmissione radiofonica. Di sicuro una cosa è certa, è che se io decido, se 100 persone decidono di ascoltare un determinato podcast, possono sembrare poche, però se lo ascoltano veramente, c'è un livello di attenzionalità che nessuna radio può avere, cioè anche se io ascolto una radio mentre vado in macchina, al lavoro, mentre cucino, eccetera, e non l'ascolto perché magari sono fidelizzato a quella radio, però a livello di contenuti mi passa qualsiasi cosa, mentre io vado a sentire cioè anche gruppi strafamosi da Metallica o Beatles, mentre se io vado a sentire un podcast difficilmente passerà artisti di questo nome, anche per ragioni legate al diritto d'autore, ma lo voglio sentire proprio perché voglio scoprire nuove cose e tantissima gente effettivamente ci scrive perché ci ha scoperto sentendo questo o quel podcast, magari non sono tanti ascoltatori a livello numerico quanti ne può avere, che ne so, Radio DJ, però sono veramente, il livello di attenzionalità è totale e quindi e quando si parla di marketing virale quello è un altro virus che si mette in circolo della musica, che riesce a navigare da gusto personale di una persona a gusto personale di un'altra persona e così si espande, perché è tutto un passaparola poi alla fine. Dani, di nuovo Stefano. Grazie, proprio Stefano. A proposito di questo discorso del marketing virale, e curiosando sul vostro MySpace, che tra l'altro è fatto molto bene, quindi vi faccio i complimenti anche per questo. Grazie. E sono risalito al servizio che il TG della 7 in qualche modo vi ha dedicato, in particolare ha dedicato ad una casa editrice milanese, la RGB, certo, diretta nella figura di Massimo Esposito, e quindi volevo che ci raccontassi un po' qual è stata questa forma di collaborazione, che anche questa è un unicum forse nel panorama nazionale. E guarda, RGB ci hanno semplicemente contattato. Spieghiamo un attimo cos'è RGB. RGB è una casa editrice che lavora fondamentalmente, diciamo impernia le proprie collane di libri o di riviste in questo caso sui nuovi media di comunicazione. Quindi questo, diciamo, bene? Sì, è una ridefinizione dell'industria culturale a 360 gradi, se vogliamo. È un tentativo di fare ciò in qualche modo, o comunque di fare una cronaca di quello che sta accadendo, di aggiornare su questi nuovi sviluppi, di fare ipotesi o previsioni sui prossimi, e diciamo è una casa editrice, diciamo, in prima linea in questo senso, sicuramente dal punto di vista della tecnologia al servizio della comunicazione. E francamente, come siamo entrati in contatto con loro, sarà brutto dirlo, ma non lo ricordo, cioè nel mare magnum di cose, francamente non ricordo, dovrei andare a vedere nei miei archivi come ci siamo entrati in contatto, ma è stato sicuramente tramite MySpace. E ci hanno parlato di della loro rivista, del loro progetto che stava per partire, e in uno di questi numeri ci hanno dedicato un articolo, hanno inserito il nostro video nel DVD allegato alla rivista. E poi qualcuno ci ha detto: guardate che ieri stavate al telegiornale, noi non lo sapevamo neanche. Quindi poi c'è stata una corsa a cercare di recuperare questo servizio, perché volevamo vederlo. Quindi dalla rete al mainstream. Sì, sì, anche perché poi sì, la 7 ha dedicato il servizio a questa iniziativa di RGB, però si è pensato di sonorizzarlo, ma anche RGB stessi hanno spesso parlato di noi, anche in loro brochure ufficiali, come band che appunto in qualche modo impernia la propria comunicazione sui nuovi media. Senti, per chiudere questa chiacchierata molto istruttiva, volevo chiederti, una delle caratteristiche più interessanti forse del modello distributivo della musica su internet è che le regole poi di distribuzione in realtà le scrive il pubblico, anche sfatando miti consolidati. Può per esempio accadere che un artista giapponese, magari non ritenuto commercializzabile, no? Fuori dal suo paese a causa della lingua, abbia grazie al web un successo globale, come è successo a Yuya Yashimoto, che ascolteremo dopo questa intervista. Mm-hmm. Secondo te che lezione devono imparare le major da quello che sta succedendo sulla rete? Sai, non... questa è una domanda importante e impegnativa. Non so se imparando una lezione poi possono seguire l'insegnamento che quella lezione può offrirgli, perché una major è abituata a lavorare, da quello che io ne so, nell'esperienza che io ho di questi meccanismi, in termini di standard di prodotto: creo un prodotto, lo pubblicizzo, lo distribuisco, lo vendo. In un territorio o in più territori, nel caso delle multinazionali, quando si riescano a coordinare questo tipo di operazioni in più territori per i grandi artisti, mentre una band come la nostra, come Bella Donna, adesso sta conoscendo questo enorme responso grazie a MySpace, grazie esclusivamente al passaparola, perché non troverai mai nessun cartellone pubblicitario, nessuna pubblicità radiofonica, nessun video in televisione, nulla su di noi da nessuna parte, perché quelli sono nei media tradizionali, ci si accede soltanto tramite questi grossi gruppi discografici, i quali però hanno l'appannaggio di quel mondo, e loro su MySpace non possono interagire, perché su MySpace è un vox populi, è un passaparola, quindi loro possono prendere atto che un determinata band, un determinato artista sta scatenando un grande passaparola, però non possono loro far avere a un loro artista quel passaparola pagando, certo, per dirla proprio in soldoni, perché non decolla, non può accadere, nessuno lo farebbe, cioè è impossibile. Quindi anzi, io ho visto che spesso la tecnica base di quello che noi abbiamo riscontrato tantissime volte, credimi, è che sia le major discografiche che tutti i grossi media, cioè le radio, diciamo quelle tradizionali, e le TV tradizionali, i giornalisti che scrivono carta stampata, tendono a denigrare totalmente MySpace e i risultati che MySpace ti può portare, perché la vedono come giustamente una minaccia nei confronti del loro modus operandi abituale. Va bene, allora senti Dani, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, abbiamo fatto due chiacchiere molto utili, se qualcuno magari in ascolto vuole aprire il suo business musicale potrà farlo. Noi ti auguriamo il massimo successo con gli strumenti vecchi, nuovi, presenti e futuri, e speriamo di averti ancora magari in futuro in una delle nostre trasmissioni. Ciao, dai, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Yeah. Radio Imago, the radio with vision. Allora Stefano, ti è piaciuto Danide e Belladonna? Un bel approccio, grande sì. entusiasmo, sì. grande innovatività. Beh, stanno raccogliendo i frutti del loro successo, quindi non potrebbero essere che entusiasti per questo. Va bene, allora stiamo per introdurre un altro personaggio carico di entusiasmo e di voglia di lavorare, che si chiama Max Haut, nome che sicuramente non dice nulla a nessuno in questo momento, però magari ne riparliamo tra un paio d'anni, secondo me è un nome di cui si sentirà parlare. Si tratta dell'amministratore delegato, come diciamo noi in Italia, del CEO, come dicono nel mondo anglosassone, di una società che si chiama Mogulus. Io non lo so, vuoi dire due parole su Mogulus, Stefano, visto che ti sei un po' documentato? Beh sì, guarda, io mi sono andato a vedere il sito e diciamo il messaggio è forte, perché loro propongono la possibilità di creare una sorta di CNN personale, quindi in stile con quella che è la nuova ondata degli user generated content, ovvero io attraverso il mio PC, attraverso la mia connessione a banda larga e attraverso una semplice webcam posso diventare un broadcaster. Non a caso il servizio maggiore che loro offrono è quello del live broadcasting, e remixando contenuti video che mi provengono magari dal flusso televisivo mainstream, io li posso ricombinare a mio piacimento e in qualche modo creare una sorta di blog, però interamente video, creare la mia piccola stazione network televisiva. Va bene, allora io direi sentiamolo. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Allora, il nostro ospite Max Haut di Mogulus, una nuova azienda molto interessante che è presente alla presentazione del libro di Tommaso Tessarolo, per presentare a sua volta una nuova, rivoluzionaria, direi sconvolgente piattaforma per la net TV chiamata Mogulus. La prima cosa che vorrei chiederti: qual è la tua posizione, qual è il tuo ruolo in Mogulus? Sono il fondatore, il chief executive officer, cioè l'amministratore delegato. Quindi sei il capo. Sì, anche se la nostra è un'azienda che ha uno stile molto informale e creativa, è come se fossimo tutti partner in realtà. Abbiamo sedi in India, a New York, e disponiamo di un organico che è composto di un totale di 15 dipendenti. Beh, insomma, per parlare di una startup mi sembrano numeri molto molto interessanti. Puoi dirci in estrema sintesi quali sono le novità introdotte dalla piattaforma Mogulus rispetto ai sistemi esistenti per la Net TV? Fondamentalmente stiamo creando una categoria interamente nuova di piattaforme per la Net TV. Per ora le piattaforme esistenti, YouTube, Juice, eccetera, sono concentrate sul video on demand. Sembrano quasi dire la TV tradizionale è morta, la gente vuole vedere esattamente quello che vuole, quando vuole. Noi non siamo molto d'accordo con questo punto di vista, crediamo semplicemente che esistano due modi per vedere la TV. Da un lato il sistema on demand, che grazie ai, per esempio, YouTube, oggi tutti possiamo utilizzare. Ma crediamo che la televisione lineare sia ancora molto importante. In fondo, quando arriviamo a casa ci viene ancora naturale accendere la Rai o magari la CNN. Non sei sempre obbligato a scegliere il tuo contenuto ogni 10 minuti. Puoi anche limitarti a cambiare canale, come è sempre accaduto. Noi crediamo che la TV di flusso abbia ancora molto da dire. Ti faccio un altro esempio. Io ho un iPod con 10.000 canzoni, ma quando mi sveglio la mattina ascolto la radio. Il pomeriggio ascolto la radio. La sera ascolto la radio. E sento le stesse canzoni che sono già nel mio iPod. Eppure la radio non ti permette di fare molto. Spesso c'è la pubblicità. Al massimo posso cambiare stazione per trovare più o meno quello che voglio. Eppure ascolto ancora la radio. Questo forse vuol dire che non si deve essere così estremi nel giudicare il passaggio dalla fruizione tradizionale alla fruizione tramite internet. Come consumatori di contenuti ci piacciono entrambe le modalità di fruizione. Quindi possiamo dire che non compiere una scelta è a sua volta una scelta. Se vuoi metterla così, sì, possiamo dirlo, ma anche con la TV lineare, non dimentichiamolo, puoi sempre cambiare canale. Il punto è che ora è anche molto più facile ed economico creare contenuti di buona qualità. Grazie alle telecamere digitali, grazie ai sistemi di editing che sono diventati alla portata di tutti, grazie a siti come YouTube che possono occuparsi della distribuzione. Possiamo insomma dire che per il video on demand tutta l'industria è stata sconvolta e rivoluzionata, ma solo per il video on demand. Se vuoi creare il tuo canale che trasmette live 24 ore con contributi in diretta da varie fonti, playlist con materiali preregistrati da mandare in onda, gestione automatizzata della grafica, dei loghi, eccetera eccetera, beh, allora in realtà non è cambiato nulla. Tutte le tecnologie sono le stesse di 10 anni fa e non sono accessibili al grande pubblico, costando milioni di dollari. Quello che stiamo facendo a Mogulus è proprio questo: permettere a chiunque di creare un canale di televisione lineare in diretta di qualità professionale in modo sostanzialmente gratuito. It's not accessible to the people and it still costs millions of dollars. So what we do at Mogulus is really, you know, enable linear traditional television on the internet to be created by anybody at no cost, basically. Quindi adesso che la televisione live è alla portata di tutti, possiamo aspettarci nel giro magari di pochi mesi il primo canale televisivo attivo 24 ore su 24, interamente generato dagli utenti, una sorta di canale all news live, interamente user generated? Credo di sì, il nostro sogno sarebbe lanciare una specie di user generated CNN, controllata dagli utenti sparsi in giro per il mondo. Questa sarebbe una splendida integrazione con il fenomeno del citizen journalism che già è esploso da qualche anno. Ci sono già centinaia di persone nel mondo che sono reporter del tutto indipendenti, sia con i blog che con le foto e i video, persino da teatri di guerra come l'Iraq. Con Mogulus tutto questo può avvantaggiarsi del lavoro di squadra. Si può creare una community di reporter che forniscono i contenuti dal territorio a chi crea il canale e gestisce la messa in onda. In pochi mesi avremo un canale con queste caratteristiche, ne sono convinto. Magari le tecniche di ripresa delle telecamere non saranno ancora perfette, ma l'impostazione del canale sarà del tutto professionale, con la grafica, i ritmi e lo stile tipico della televisione lineare che tutti conosciamo. Il punto di forza sarà l'interattività, con commentatori e reporter che potranno facilmente intervenire in qualsiasi momento, ma le applicazioni non si fermano certo al canale All News. Se pensiamo ai reality show, beh, normalmente questi costano molto per la loro realizzazione. Con Mogulus anche i reality live come il Grande Fratello diventano alla portata di tutti. In sostanza, noi vogliamo dare alle persone che hanno delle belle idee da portare in TV il potere di realizzarle senza doversi accollare i costi di produzione, magari creando nuovi format. Per esempio i blogger, che sono già una forma di giornalismo online, beh, con Mogulus potrebbero a loro volta creare un blog sotto forma di una televisione in diretta. Insomma, voglio dire, le possibilità sono infinite. Dopo la creazione di Mogulus, alla fine che risposta ti aspetti da parte delle grandi televisioni internazionali? È da vedere. Siamo ovviamente interessati a lavorare con i mainstream media sotto forma di partnership, e del resto abbiamo anche una versione pro di Mogulus. Sarà interessante vedere come reagiranno al fatto che la produzione di canali lineari di livello professionale sarà possibile anche a chi non accede a grandi finanziamenti, come invece fanno le TV professionali. Staremo a vedere. Allora, ti piace il modo in cui Tommaso Tessarolo confeziona questa intervista con l'inno, poi i suoni tipici del monoscopio? Sì, è questo cortocircuito, no, tra le varie epoche mediatiche, mettiamo così. Senti, io vorrei ringraziare, anche se non lo avevamo previsto, Marco De Mico, che è accanto a me ed ha tradotto in simultanea quello che ci siamo detti io e Max Holt, e che ha fatto una simultanea, come dire, amichevole per Radio Imago. Speriamo magari di averlo in occasioni più istituzionali a lavorare per questa radio. Ciao a te Antonio, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, senti, a proposito, Max Holt ha detto delle cose abbastanza sconvolgenti. Magari qualcuno sta tremando nelle sale del potere televisivo. Assolutamente, credo che Rai e Mediaset siano impaurite da quello che sta accadendo. E poi anche qui dobbiamo registrare un'anomalia del panorama italiano, perché invece se vediamo ciò che succede oltre Manica, per esempio è notizia attuale il fatto che la BBC abbia in qualche modo organizzato un proprio canale interamente su YouTube. Tu pensa quanto dovremmo aspettare per vedere Canale 5 su YouTube? Beh, per ora ci stanno pensando gli utenti a copiare allegramente quello che va sul mainstream media. Ci sono anche delle pendenze legali, come sappiamo. Ma forse è un po' presto per lanciarsi in previsioni di questo tipo. E invece è tardi, dal punto di vista dell'orario dobbiamo chiudere la trasmissione. Io ringrazio Stefano ancora una volta per la prestazione all'ultimo secondo sostitutiva. Saluto tutti gli ascoltatori e do appuntamento alla puntata di giovedì prossimo. Arrivederci a tutti. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Sono le 19:50. Radio Imago.